attitudine inespressa, quella che mi mostrerai. Che sia amore o che sia sesso, cambia in base a quanto vuoi. Abbassare le difese e mostrare quel che sei. Lascia perdere il copione, improvvisa su di noi. Sarà buio abbastanza per sentire che mi vuoi. E lentamente come un gatto soffierò e mi lascerai. Esplorare palmo a palmo tutto quello che vorrei. Navigare indisturbata lungo i desideri tuoi. Sublime l'effetto di ogni contatto distratto.